attenzione, di 5 avanti Gianni. Marco Mari, che ero manco uno nei ciccioli. Sono come più, non si sente niente di niente, invece no, non si sente nessuno stasera. Come ricopre capo che era. Forse quello è uno dei fabbri più grossi che c'erano a Sassa. silenziosa. Adesso vediamo, perché bisogna risolvere quel problema. Lo so. No, io ho provato a aprirlo, a controllare, ma c'era lì che dal consenso non entrava. Se fosse stata diretta li avrei già staccata. Li avrei già staccata e fatto andare solo a velocità mediocre, però più silenziosa. Il problema è quando schiacci la portante e parte la seconda velocità e quindi è troppo rumorosa. E vabbè, però se si deve usare si usa lo stesso, no, non ci sono problemi. Avanti Gianni Tossandro. Ciao Sandro, mi hai sentito? Vai. Mi ero notato un attimino che sono stato qui nel barattolo delle olive che mia moglie sta facendo la pizza e non riuscivo a aprire il barattolo, c'è l'aria dentro, e dopo un colpettino, tac, tac, si è messo giù. Buonasera Sandro, dentro questa parentesi, ti super saluto davanti. Ok, ciao Gian, buonasera. No, recupero, ma ce l'ho già. Tu ti ricordi? Sta squillando il telefono, scusate. Vabbè, gara. No, la paletta spagnola, io ho 14, cazzo, suocatevi a 14. Giuseppe poi non ci trova, vabbè, si cercherà. Chi già ci trova? Oh, ci sì. Già sono qua, guarda silenzioso qua. Ci sei, cambio. Sì, tanto sono qua, non mi senti? Adesso sì, già forse ho fatto io. Girando tu parlando, anche ho sentito. Capa. Oh, yeah. Oh. Chi è rimasto? Chi c'è? Sandro, ci sei? Ah, il telefono. Sandro già vieni qua, già eravamo anche stasera qua, c'era anche Fabrizio. No, ma c'è meno cuore, ma che boh. E c'è un canale lì, è diventato un casino, il 10, l'8, il 12, sempre cuore, ma c'è. Antonella, prendi. Questo era il canale di Antonella Lisci. Qua, anche a Buduso c'è qua, ciao Pinocchio. Se tu hai capito, se tutto mi chiamano su 10, io non ti sento perché è tutto pieno di quarrelle, di spagnoli, di casino, e quindi no, non ti ho sentito. Invece qua come hai chiamato ti ho sentito subito perché c'ho quarrelle a Santiago Zero, più uno, capito? Sono in compagnia di Gianni Rotti Rum e di Antonello Alessi, forse Antonello ti sente, ma Gianni no, già lo senti a più un certo modo da Budusò. Ah, te sei Italia, ragazzi, noi che partecipiamo qui noi, per carità di Dio. Cosa l'Italia? Noi abbiamo una squadra di Serie C, pare, ragazzi, campione d'Italia, ragazzi, campione del mondo, ragazzi, noi. Ah, mamma mia, non me sto. E so che la palla è tonda, è un rimbalzo, stiamo giocando bene, beh, non ci possiamo lamentare. Vabbè, Gianni, le prendi. Non l'ho sentito, ciao, non ho sentito a Pinocchio il Moro, non l'ho sentito il presente, proviamo a farlo bene avanti. Comunque non è il caso, se mi sono saluto, anche se non mi sente, manda i miei saluti. E lì, la zona è più favorevole per lui, ma non so se a me mi sente. Pinocchio, avanti. Pinocchio, dalle gas, Pinocchio, dalle gas. Non sentite il facciamo? Ah, io ti ascolto bene, Pinocchio, dai, sto seguendo un po' la partita, dai. Bene, dai, riprendete, dai. Ehi, però ti ha salutato Gianni Doppio Roma. Già ti sente Gianni, ti saluta cordialmente. Ma insomma, già ti accoppia già. E anche io lo sento piccolino, ho sentito che sono stato Antonio, ciao Antonio, adesso. Però a spazio, sento, a pezzi sì, a pezzi no. Vabbè, comunque non è il caso, si ritenga salutato da parte mia. Hai sentito che Gianni ti ha salutato, cordiali saluti. ti sente, ma basso basso, lui è nella bassa valle del monte, e quindi lì arrivi basso, e anche a me mi arrivavi basso quando ero in quella zona. Va bene, Antonello Alessio, noi Gese. Pesce, mi senti? Avanti. Avanti. Sto facendo il portale. C'è una particolarità quando abbassa la portata. Vedi, ho capito. Siete da questa terra, eh? E c'è una locura. Cosa? Furetto. Tra i 14 c'è stato sempre meno, quello romano QRM, 14, 20, cioè 10, è qualche giorno che l'8, 10, 12 c'è un po' di QRM e ora siamo soltati qua. C'è più un certo numero da Vuduso Sandro, vai. Da Vuduso sarà un po' difficilino, comunque. Buonasera, Pinocetto, se mi ascolti, Sandro, un po' Torres avanti. Senti Torres, ti ho detto. Attivo, è un mosso lago, però ti ha sentito. È tornato a sogno. Allora, Timati, Andi, dove? Atti fermi. E madre ne sono, per carità di Dio. Ciao Franca. Non sono riuscito a tirarlo fuori lì a Pinocetto, e comunque Pinocetto ben ascoltato lo stesso, anche se non sono riuscito, diciamo, a tirarli fuori, dai. Alla prossima, va bene, ciao. Ciao Falcher, riprendilo. Ok, ti stavo a dimenticare il nome, ciao Sabri. No, niente, stiamo seguendo le dettagli, dai, ma facciamo pena, dai. Facciamo veramente pena, No, ehi, guarda, oggi guarda, sono un po' fuori fase. Guarda, mi sto un po' riprendendo, perché oggi mi hanno martoriato, guarda. Ah, bene, dai. Allora sei perdonato, dai. Già va bene. Ciao Gianni, sono più lungo, ma ha chiuso Pinocetto, qua. Era qua. Piano, le prendi. Via. C'era anche Leoncino. Come ci ha trovato su 14? Oppure sta mangiando adesso? Sta pagando. E andare. E allora, adesso. E te mi ricordo, come mai ti hanno martoriato al lavoro? Io già, magari fosse al lavoro. No, ho dovuto fare una visita, diciamo, peccato, una visita di intervenzione, capito? Una visita di intervenzione. La cronoscopia. Raga, e io l'altro giorno le ho fatte tutte quante. Ho fatto analisi del sangue, ho fatto quella per la posta, per tre prevenzioni. E me ne ho fatto un po' tutte, grazie a Dio io sono a posto. Meglio così. No, ma diciamo c'era la dottoressa che mi ha detto ce la faccio perché è passata dopo 50, diciamo, è meglio per prevenzione. Poi, essendo, diciamo, con la buona maniera che fa lei, essendo molto a contatto con il pubblico, molto a contatto, diciamo, in locali, questo e quell'altro, è sempre meglio, diciamo, fare i controlli. A pagare è la stessa cosa, si deve ripetere poi ogni anno. questi controlli ogni anno, meglio ripetere, dopo il 50° anno di età. Io li ho fatti perché anche mia moglie mi stava assillando, ho fatto tanti controlli, questo e quell'altro, non c'è più ragazzini, e allora li ho fatti tutti. Vabbè, io sono controllato anche perché avevo il diabete, ogni volta che vado a fare diciamo la visita mi ordina per dire elettrocardiogramma, insomma questo, quell'altro, analisi delle urine, tutte queste cose come le fa fare. Però questa qua della prostata non l'avevo mai fatta. Non che abbia nulla, però dice che per prevenzione dopo 50 anni bisogna farla. Trilo è una bella cosa. Mi sono cosa che la prostata, mi ha detto pure a me il dottore di farla. Ma mi ha detto, guarda, non è meglio una faccia, ti mettono un dito in culo, vero? È vero, è vero. E allora gli altri parlare di Giulio, anche di Giulio e di sempre, io lo sai già nella gelosia, e quindi non so cosa vedi, non so cosa vedi, allora dico di farmi fare un'altra visita, che questo del dito non mi piace. No, inizia a tirare a bocca, stai tranquillo. Non vedo sorge, andiamo a dubbiare a Canica, è cambiato. Chiamalo a correre, ma come ti sorge io? Ciao, aspetta un attimino che arriviamo. No, aspetta, il medico innanzitutto c'è una tuta davanti, una tuta in gomma o qualcosa. Poi c'ha, hai presente quelle maschere che si mettono i giardinieri con la parabrezza davanti? Non si sa mai che cosa arrivi a faccia. Fino al destino. Il discorso è quello. No, stavo di Paolo, prova. Molto mi sono presentato, sono stato io, la verità. Io ho il amico geniale che è il nome. Vabbè, comunque l'ho detto. Ma lo quello è una cosa sincera, guarda, la verità. Sono pochi che fanno come me. C'è molto in fuori. Mi fa piacere, l'avete preso come scherzo, ma sono proprio fatto per voi. Dai, non è successo niente, finché sono cose naturali, ho un po'. Già va bene, ogni tanto le drammatizzare, dai. Ah, vabbè, io lo sai che Claudio si è fatto così. Mi conosce la parità tempo, quindi lo faccio per scherzo, poi già sai, poi mi presento, qui non c'è nessun problema per quello. Poi io stavo vedendomi con Forchetto, lo sapevo che tu da segnare, non c'è problema. Solo che stavamo parlando di prostata. A proposito di prostata, è entrato un ghiaccio e ora prendi cicca-cicca-cicca-cicca. Ma alla fine si sono sposati. Cosa ne so io, la verità? Uno di stato perché non funziona video, solamente audio, il bello è quello. Non vedo niente, il problema è quello. Adesso faccio un mal di testa già, che la pagaccia di Pomponio, oh cazzo. E poi che cosa avete bevuto? Che cosa non abbiamo bevuto? Una mazza di nevaia da Pomponio. Oh. Anzi, due latte di birra da 50, di Becks li ho portati io, poi altre tre bottiglie di birra a casa sua, una al circolo, cazzo, fatelo conto, è in condizioni di gemmo, cazzo. Ecco perché mi è venuto un avvertizio a tutte e due. C'è René, quindi bisognerebbe staccare René sicuramente, stai scherzando. Perderebbe la garanzia. Comunque vai, quando vieni qua ne parliamo poi, non c'è problema. Segna, perderebbe. A cuore in culo. Yeah. Ha fatto tutto lui la vetta. Per fare un attimo era lontano, non ho dovuto dire così già. Che cazzo? Ma no, ok Luca, va bene, guarda, non so. Tu sei come quell'altro qua, tu sei come quell'altro, vabbè. mamma mia, la breccia, mamma mia, guarda. Mi sa che qua bisogna mettere anche lui lì. Con la persona, se non è possibile. Dopo, l'altro di campo di pedire. Dimmi, avanti, là. Dimmi. Sincero, devi essere però, eh. Certo, ce l'ho o ce l'hai? Ma tu sei? Sì. No, sono bianco. Bianco sì? Sì, bianco sono. Avremmo abbronzato. No, sono mica abbronzato io. A parte che quando sono stato stasera nello conto, una persona che fa il bambino mi ha detto, dice, guarda che il lineare dice, è la duro come ha detto. No, ho detto, guarda io sono rondo, il lineare è la verità, ha detto, la pezzi, no, assolutamente mi ha detto. Prendimi la brezza, mi viene tutt'altro che nient'altro la brezza. E te lo sto dicendo. Sono preoccupato, ma cazzo il telefono. Pronto, ma cazzo l'ho messo adesso? Beh, da te con quelli vecchi con voi, Aspetta, ma provare qua. Però non mi ricordo, l'ho messo e faccio non... Non posso fare niente. L'ho messa. Porca, eccola qua. Questa qua, no? No, questa è una mia fattura grande. Bella roba la capsa con le piccoline. Non c'è più, provale Luca, te lo sto dicendo io, provale. A uno e poi magari quella che va meglio metti, diciamo se da prima non va adesso. Quindi provale uno. Se pensa che va bene, piattala. Se va bene va bene, se no se abbia il culo. Ma non è giù buccia, ma è giù montata, non sono come messa. Porcaccio buia. E la colpa la tua, mica è mia, scusa. Guarda, se te l'hai messo in mezzo alle gambe. Appunto. E qua, se appoggio il mattoncino nel microfono, poi mi senti più forte. Vabbè, non ho preso amplificato. Leonardo Culi nella minghita. Glielo farò a fare. Appoggio per te, qui sono per te. Tu quando si parla con altri più, io ti voglio far conoscere una persona. Per il mio programmi, basta la prendere qua sera. Beh, ci vuole poco attaccare il programmi. Ma non va dei programmi. E buon lavoro, mi sa, vai di là. Ma buon lavoro, vero? Siamo la donna, se lo vedi, facciamo un sorriso, cazzo, che quando ti sorride ti specchi. E qui come? Brigliutti, come sta Brigliutti? Bene, Clau, fatta bene. C'ha due tette che siamo due melanzane. Cazzo, due melanzane, via di più guguma a me. Già ne riprendi. Cappa, vabbè, arrivati comunque oggi. Avete festeggiato. Giuseppe, quello che è una meraviglia che tu guida fino a pure bevuti. Ma io vado sempre piano, già lo sai. Dica, se muove di quattro strade quando sei cotto. No, non ne vedevo quattro, ne vedevo sei. A me la voce che sto parlando quando travagliavo Antonio ha l'impianto meccanico. Notte andavamo così a fare compagnia. Cazzo, avevo così tanto che da qui all'intorno mi sono spartito affittato di un riso in due. Non sapevo più da che parte andare, se devo andare dall'altra, se sono caduto dentro il vinello, ma come era il vinello di Sugius? Questa mattina l'ho visto a Antonio, ci dobbiamo vedere lunedì. Lì se ne facevano di festini con l'impianto, non lo ricordo. Ora invece è un casino, c'è sempre la direzione lì, ci sono gli uffici, un bordello nero, una galera è diventata oggia. No, ma la notte non facevano nulla, io ho fatto il giro anche con lui, controllava solo il quadro, quando suonava controllava se per dire c'era qualche motore che non andava, chiamava il tecnico e veniva giù il tecnico che c'era reperibilità. Faceva il giro con la pila, roba di salone, nei sciare, nei vasconi, tutto qua, faceva il giro e poi tornava indietro. Lo so, ti telecontrolli. Anche adesso è così, adesso la notte non si fa più lì, ma alle 7:30 vanno via tutti. È tutto l'impianto nuovo, è tutto a telecontrollo, capito? E vabbè, nei tempi erano anche quelli, vai. Più giovani eravamo, adesso casino. Vabbè, avanti, Sandro è andato a portare il cane, fa la piscia e impegnato a me. Ecco, quindi Sandro è andato a fare la pipì al cane. E quindi siamo a posto. Vabbè, c'è problema. C'è un altro degli altri, nessuno. A parte quelli che siamo qua, no? Ah, mi sono dimenticato, anche un rosmo te l'ha regalato. Ecco il rosmo tu. Rosmo è trovè a doppio coso. E dici il rosmo te li presi, sì. E dai, la carta di mattina, insomma, guarda come fai tu. Però, non si è calato bene. L'ho provato, mi dava 1,5 le stazionarie, 1,3. Però infatti, guarda, 100 watt, però non so se li segna giusti o meno. Vabbè, lo proviamo. Ma io lunedì spedisco il 440 di Tino. Se ne occupa Sandro, che lui c'è un amico su. Parte in continente, lo metto a posto. Faccio fare tutto nuovo, e poi ritorno qua. Vediamo, se lo vuole, vabbè, sono pago la riparazione, vedo la differenza, me lo tengo e me lo vendo. E vabbè, ce la facciamo io, no? E abbiamo due di 440, non c'è problema. Tanto io entro dicembre, un po' di piazza pulita di chimico devo farli, quindi uno va a Giampaolo, uno a te di 440, mi tengo la linea 430. E prendo un'altra radio più grande per fare HF, se no facciamo la vendita dei cable di qua, ne ho proprio più nulla, ne ho, capito? Tutto qua, c'è un amplificatore HF, quindi voglio una radio grande, consistente, che mi dia veramente grandi soddisfazioni. Adesso vediamo cosa prendere, per fare 27 uso 430 che esce meglio del 440. Ok, anzi mi adesso commuto l'antenna e uso il 430, questo è il 440 e mo usiamo il 430, che prendi già. Commuta, commuta. Cappaga. Me la giungo con un po' di rubate. Prendi rubate. Senti la modulazione del 430, senti. Meglio questo con la verità. Sì, non te volevo, ma la verità con il 430 non cerca nessuno. Il 42 sono 50, sono a 40 watt. No, 50 watt. O 50 watt. 60, 70 modulati, 50 watt è importante. Già va bene. Adesso facciamo una cosa. All'asta, quanto si vale il mio? E 70 come? Non so che valutazione c'è, no? Non so, il 430, 450 euro, è più alto del 440 con valutazione, lì c'è filtri colli, se c'è un sacco di cose in più, non c'è la corrotta dell'antenna, ma infatti io non lo tengo perché ho il 250 esterno, quindi mi tengo questo, 440 lo stesso, 400, 450, adesso vediamo come esce quello di Tino. E poi rivendiamo tutti e due, uno l'ho promesso a Giampaolo, non ci sono casi, dovevo volare per forza, e l'altro di Luca. No, parlo del mio, sto dicendo, e basta. Parlo del mio, solito del mio parlo. Faccio tutto così, per il mio si all'asta. che il mio operatore dell'antico, quindi se che lo vuole, sono della mano 3,50. Garantito perché è garantito, ma è toccato. Quindi con microfono chiaramente è toccato. Yeah. avanti già, dai, non c'ho nulla da dire. E anche Giuseppe, più in là, si sistemerà bene la bella stazione, vero Giuseppe? Scappa. Come becchi un bel lavoro, hai visto quella persona, la beccata, il lavoro, da lunedì entra la... Dove è già? La. Dove ha detto? A come? No. Kappa, qui devo annunciare una cosa. Dimmi. Qui, annuncia. Mattarina ha trovato il lavoro fisso. Me lo auguro, è ora. E dopo già? Autista di scuola, bus. Cazzo, quello... Non sarebbe così da tempo io, perché era in gravatoria lui. Me l'avevo già detto, ne avevamo già parlato con Tatale. Non sapevo già, non sono contento. Beh, era in gravatoria lui per il disco. Mi pare che era decimo. Quando era l'anno scorso, o due anni fa, era decimo, che ero andato a fare delle assunzioni all'ufficio di collocamento. E ho visto la gravatoria degli autisti, proprio di Scolabus. E mi sono nasciuto. Ho telefonato e gli ho detto, ma trovate lì, ma mica sei. Sì, lo so, però ogni anno mi dicono. E finalmente ce l'ho fatta, sono contento. Sì, ma non c'entra nulla con la gravatoria qua, ha messo l'articolo sull'occasione, l'hanno chiamato. Ma non qua, è fuori, a Valliduria. Al comune di Valliduria. Kappa, avanti, break. Diciamo controllore di volo, e praticamente stavano andando per il controllo di Olio. Il controllo di volo sappiate che non è quello che chiede i biglietti sull'aereo. Scherzi. Cioè, è un lavoro di responsabilità, ma no, di Olbia sicuramente sarà molto più semplice che in un aeroporto tipo Linate o che ne so, qualche aeroporto grosso, dai. Perché Olbia è internazionale l'aeroporto, Sì, è piccolo l'aeroporto, però c'è un volo internazionale. Capizio. Avanti, le colla pure, Mariuccia. Sì, come faccio io comunque. Ascolta, volevo che dicessi quello che come l'altro giorno, cioè quella questione che lo sei tu, delle volo di Ikeda, più che altro. Se sono risolte, poi no. Allora ci sono state le polemiche l'altro giorno tra Antonio e te, siccome lui si è lamentato l'altro giorno a Baracchino, e quindi volevo che si è preso niente più che altro. Ma se per noi io non ti rispondo neanche Antonio, cioè Fabrizio, a me delle polemiche che ci sono state il giorno che io ho cercato di andare non me le sbatte un cazzo, ok, proprio zero sotto zero. Basta che qualcuno venisse a canale 12 e mi dicesse come ha fatto Antonello Dios tra stacca perché mi stai disturbando, perché non ho fatto per disturbare nessuno, io non ho sentito nessuno, perché se sapevo che c'era gente su 10 non l'avrei fatto, punto. Quindi siccome non sono abituato a chiedere e fare, no, mi conoscete tutti, quindi chi ha fatto polemica a me non mi interessa un cazzo, proprio zero sotto zero, anche perché discorso chiuso a parte mia, quindi chiuso anche a me, non ti preoccupare, non è successo niente, chi si è offeso rimane offeso, chi non è offeso continua a fare radio, punto, non vuole parlare più, avanti Fabrizio. Il discorso è semplice, siamo quattro gatti e ci stiamo nuovamente divertendo qua, quindi può anche capitare che tra due persone ci siano dei problemi, a me dispiace che non sono riuscito a farli risolvere, potrei assumere anche qualche colpa, va bene, però vabbè, è andata così purtroppo, può capitare, non è che tutti vogliono andare per forza d'accordo, siccome siamo una greffa qua di amici, diciamo, può essere che una greffa di amici non si pareggiano molto, va bene, tutto porta allora qua. Sì, niente, va, io lo sai. Allora ci sarà questo piccolo attrito, va bene, ma siccome siamo tutti una persona intelligente, anche Claudio, siete una persona intelligente, come tutti, ci continua a parlare, loro parleranno un po' di meno, ma continueremo a giocare qua, questo è il mio pensiero, se è condiviso, se sbaglio, come dicono, correggetemi, è anche giusto. Sarà un'affermazione che ha fatto Antonello, giustamente, e io ho spiegato le mie motivazioni, Antonello ha capito, è una persona abbastanza tranquilla, noi siamo stati per 20 anni vicini, poi io sono sceso via Pascoli e siamo tornati vicini, non ho mai avuto un desiderio, non ho mai avuto niente, se qualcuno pensa che tutto viene dovuto e tutto sia rose e fiori, non è così, purtroppo si può sbagliare, e sbagliando si impara, io ne abbiamo già parlato, Fabrizio chiede scusa, se qualcuno pensa che io mi debba abbassare le mutande, allora non mi conosce bene, pertanto chiuso il discorso, non voglio più parlare, io continuo a fare radio qua, e da tutte le parti, è stato un disguido, io ero sul 10, ho visto non c'è nessuno, sono passato sul 12, e mi sono messo a pompare con l'amplificatore, siccome una radio che, come tutti sapete, non prende pace bene a tutti, fate la pace, non la guerra. Già, è bello. Va bene, dai, io, mi fa piacere, siccome ci sono state volte, dai, tipo piccole allusioni qui, perché poi ovviamente è una cosa normale, quando uno è fresca la cosa, un po' di lato, si cerca, eccetera, eccetera, eccetera, lo sappiamo tutti, siamo tutti persone umane, con la differenza che siamo ormai oltre la quarantina, quindi tutte persone mature. Sono cose che capitano, io credo che le cose non è solo per il canale 12 che ci è successo, ma ci sono tante altre cose sotto che io, come Claudio sa, non voglio sapere, non mi interessa. Così, e torno a dire, è andata così, perché tra le persone che vivono e che respirano ci possono essere problemi, ora per colpa di uno o per colpa dell'altro, per incompatibilità di carattere, però possono capitare. L'importante è che non si coinvolgano le altre persone e che continuiamo tutti in amicizia, perché io con Claudio tratto molto bene e voglio continuare a trattare bene, tra Antonio voglio continuare a parlarci, come penso tutti. Siamo tutti insieme amici, speriamo che la prima cena che facciamo tutti i cibi, che io volevo organizzare con tutti i cibi, un giorno ce ne andiamo in agriturismo a mangiare, magari un bicchiere di vino in più si riesce a fare la pace. Io scusate, ma sono sempre un pacere, quindi ecco, io la speranza per me è l'ultima a morire, dai. Questo qui è quello che volevo dire io. Comunque, dai, chiudiamo il discorso e parliamo del nuovo partito che sta formando Berlusconi, che a me interessa, il partito della gnocca, è quello che io voterò. Ecco, comunque non è così come hai detto tu, la verità, perché tu l'altro giorno hai parlato diversamente, la verità ti dica, quindi tu hai detto se, per essere così al baracchino ci sono delle, cioè il problema non ha fatto per una volta, hai detto che prende il baracchino e quindi è l'omone, no, assolutamente non va bene, la verità, come la penso io. Se sono problemi da una parte e dall'altra, dicevo non tu, per come la penso io. E sono contento che loro abbiano risolto quel problema, la verità, per come la penso io. Poi non lo so, sono veramente contento. Allora se c'è la pace in frequenza e se tutti si vanno un canale per dire, sono 14. Allora ci ritrattiamo e basta. Sono contento che le cose si sono risolte, perché sono veramente contento, guarda, per come la penso io. Veramente sono levato, guarda, non di un metro, ma più metri, la verità. Ecco, non è che ti ho capito molto bene. Adesso lo capisci, hai visto? Io quello che ho detto stamattina non ho problemi a ripeterlo, ho detto che in frequenza è quello che ho detto anche a quattro piani, no? Perché come avrete capito io non ho visto solo. C'è qualcuno che ascolta la mattina quando non ci sono io, poi mi riferisce tutto, quindi è ovvio. Quello che ho detto adesso, in parole magari un po' adesso più diplomatiche, però già bene quello che ho detto, le parole giuste sono state. Io l'altro giorno, rientrando, e quello mi sembra che sia anche la persona interessata, ho sentito delle allusioni, delle cose che c'è in proprio di frequenza, e sono cose che sarebbe meglio che i problemi si risolvono in altre sede, e su questa frequenza non se ne fanno, perché se si inizia una pitticiare che vuole andare sull'altro canale, che vuole andare su quello, alla fine il giocato si rotta, penso che avete tanto poco fa questo, non è che ho detto quello diverso, magari in maniera un po' più diplomatica, ho sempre queste le parole, infatti io sì, giusto per dirlo, ho sentito, facciamo qui, andiamo qui, ho sono, non ci sono, entro, esco, vado e torno, ma non me ne frega un cazzo, ho capito? Perché questo canale 10, nel canale 10, eravamo quattro persone, io, Luca, Natalino e Gianni Doppio Rum. Non abbiamo mai rotto i coglioni a nessuno. Quando poi è iniziato a popolarsi il canale 10 e qualcuno se n'è impossessato, capito? Dando, dettando leggi, facendo leggi, eccetera, eccetera. Io mica ne sono opposto, a me non mi interessa niente. Capito? Però il fatto che uno si metta a parlare male non abbia il coraggio di passare nel canale dove c'è il corrispondente e dire guarda che mi stai rompendo le palle, non va bene così. Io avrei chiesto scusa. Invece mi sono stato aggredito su una manovra sbagliata, giustamente, che ho fatto, me ne assumo tutte le mie responsabilità per una cazzata. Quindi, e questo spero che non succeda mai più per nessuno, perché la prossima volta mi comporto diversamente. Tu, siccome come ha detto Fabrizio, dobbiamo andare avanti e cercare di far capire alla gente che a Sassari ancora esiste qualcuno che le piace la radio, il discorso per me è chiuso, ma è chiuso del tutto, cioè non esiste più, non siamo mai stati amici, non saremo mai nemici, ognuno con la sua strada e via così. E basta, chiuso il discorso. Giustamente Antonella ha voluto inserire stasera questa ruota, questa polemica, che poi polemica non è, sono degli scambi di opinioni. E a me mi sta bene, così abbiamo chiarito e va bene così. Poi sta a lui, se vuole entrare e dire la sua a me, da un orecchio mi entra e dall'altro mi esce, visto che ho provato anche a telefonarle e direttamente il telefono non sa neanche cos'è, ma sicuramente non conosce neanche la vera personalità di chi può fare tanto. Vabbè, chiuso il discorso. Gianni, a te il microfono, fai girare. Prego. Io sono sempre di Colonia. La vita è una sola, secondo me, mettetevi la pietra sopra, l'ho fatto io, lo può fare più. Prego. Registrato il becco, un attimo, forchetto. Gianni, io ci ho provato, capito, ero pronto, tu mi conosci forse più di tutti, assieme ad Antonio. Io ci ho provato, non l'ho mai fatto, tu lo sai, l'ho fatto solo con le persone che penso siano persone educate a modo, e quindi mi è dispiaciuto, perché devo dire mi è dispiaciuto, però il fatto che in due occasioni che gli ho dato non mi ha risposto, per me il discorso è chiuso. Mi sono dimesso anche dall'associazione, sappilo, e se stai ascoltando mandami i documenti che ti ho firmato, perché me li devi mandare, punto. E quindi chiuso il discorso, io vado per la mia strada e lui va per la sua. L'importante è che non si incrocino le strade dove ci siano diverbi, perché altrimenti sai cosa può succedere, Gianni, no? Io sono abbastanza tranquillo, ma sono molto molto vendicativo e molto figlio di bagassa. Avanti Beck. Saluto le belli, pace e bene per te e a tutti. Ciao, ciao. Stavo parlando di cose non di adesso, le cose un po' passate. Io rilascerei, vabbè, faccio girare per i saluti a Falchetto e qui rilanciamo a Fabrizio che sta viaggiando. Ok, dai, allora Fabrizio, dai, riprendi tu che stai viaggiando, Fabrizio. Sì, non lo sento. Che impressione è quello? Anche Fabrizio, ci sei Fabrizio? Sta parlando. Capito cosa ho detto? Ho detto di fare pace con... di metterci la pietra sopra e fare pace. Mettere l'orgoglio un po' da parte, se non aver l'altro e via. Io adesso mi sto mettendo a fare pace e comunque anche Fabrizio ha detto così. Già, noi ci conosciamo in tante occasioni, siamo conosciuti. Io la mia buona volontà ce l'ho messa, siccome ho 51 anni non credo di poter leccare il culo a nessuno, perché non è il mio carattere, però quando sbaglio vedo di andare sempre incontro alla mia personalità. sei e per come ti conosco io, e quindi non mi ha fatto che immensamente piacere il passo che abbiamo fatto sia uno per l'altro, però va bene così, va bene così, abbiamo la stessa età e ci conosciamo da tanti anni. Io questa persona non l'ho mai conosciuta, l'ho sentita qualche volta in radio, ho dato il massimo di me stesso per tantissime cose, mi sembra aver mantenuto sempre la mia prova, perché io posso avere 1000 difetti, però 1000 pregi, capito? E quando dico picchia picchia perché ho una parola sola, posso stare tutta la notte attaccata alla radio, lavorandoci sopra, facendo, però se dico che quella radio deve uscire con me, non sente a fare. Quindi a prescindere da quello, comunque io ho il mio carattere, radio lo sapete, io ho la mentalità da radionatore, quindi è quella mentalità che a me mi hanno insegnato di avere le radio e farle funzionare, non stare a metterci le mani dentro, non toccare. Se so fare una cosa la faccio a me e agli altri, e infatti io quando si fanno determinate cose non è giusto farle. Questo è il mio modo di pensare di fare radio, che oramai conoscete tutti, forse uno lo sapeva, io l'avevo già detto una volta, io amici radio ne ho pochi, però di persona ne ho tante, però la gente mi prende per quello che sono, faccio radio con tutti, mi diverto, scherzo, mi incazzo, ma non me devo incazzare. Lui diceva impossibile e invece c'è caduto, perciò per me non esiste, finito il discorso, non devo mettere pietra a nessuno, io ci ho provato, lui non ha capito niente e quindi se ne rimane nelle sue, io me ne rimango nelle mie, non ho bisogno né di lui né di nessuno, grazie a Dio non mi manca niente, la mia famiglia è a posto, tutto funziona alla grande, perciò va bene così. Chiuso il discorso, non ne voglio più parlare, non ne voglio più parlare. Quando entra lui io non vado via perché non ho nessuna motivazione di andare via. Se vuole entrare e fare questo lo può fare con tutti, tranne che con me. L'importante è che a me non mi cerchi, faccia finta che io non esista. Punto. Avanti a chi tocca, a Forchetto che è appena entrato, a Forchetto fai diretto. Positivo e capaloce, no? Io sono del discorso fate l'amore e non fate la guerra, comunque non ho capito il discorso, comunque non mi interessa, dai. Bene, bene, l'Italia ha pareggiato 1-1, adesso sono contento, dai. Ma io te l'appoggio. Grazie. Sì, non dire niente, non c'è problema. Vi do la benedizione dal sindaco di Bloaghe. Tanti a te che ciò lo faccio maledire. Tenerissatene, cosa vedo il sindaco di Bloaghe? Cosa vedo? Oh, Fabrizio, un secondo. Ciao Fabrizio, buon lavoro e buona nottata, buon tutto, ci ascoltiamo domani, poi ci vedremo sicuramente in verticale. Domenica a prendere un caffè, siamo tutti per fare segni domenica mattina. Ok, ciao, buon lavoro e buon tutto, ci ascoltiamo le prossime. Stavo dicendo Antonio poco fa che io la mattina sono a lavoro, però c'è qualcuno che vi ascolta e poi mi dice tutto a me, quindi ero già corretto di quello che è stato detto stamattina, non ci sono problemi. Quindi se mi riferiscono cose belle, io accetto cose belle. Il giorno che mi riferiscono che io non sono a casa, perché questa persona è 24 ore su 24 a casa, purtroppo, se mi riferiscono cose brutte, sono cazzi da tagliare, ma cazzi da tagliare forte. E lo sono infatti. Io ho fatto, mi ha fastidio tanto sentire cosa del genere, cioè non c'è proprio qualcuno, ma diceva il telefono e ci penso io per te, ci vediamo, andiamo al bar, discutiamo quello che è. Però sentirmi dire che una persona ha il telefono di perché no, non mi sa bene proprio per niente, la verità. È come la penso io. Poi non lo so, io sono fatto così. Se c'è qualcosa di qualcuno, vado, diceva, tu dici, ci vediamo dopo, alla una, dobbiamo discutere una cosa. Ti telefono, ci vediamo e basta, non è che mangi qualcosa a baracchino, a parte che è anche brutto la verità, è come la penso io. Non lo so. È brutto la parte sua, non certo la parte mia, perché io non ho fatto assolutamente niente, l'avete sentito a me, a voce, prendere a parlarci qualcuno, non l'ho preso tutto. Io sono entrato al canale 10, a un momento in cui mi hanno chiamato e ho detto non ti permettere mai più di fare il mio nome, di trattare la gente in quella maniera, perché io ti distruggo, e lo distruggo, capito? Non me la fate nulla a me, lo distruggo perché se la prende la radio e tu mi conosci bene. Quindi dal momento in cui io gli ho detto questo, per me il discorso è già chiuso, non mi deve cercare, io non devo cercare lui, quindi per te i problemi che sono chiusi. Io mi sono comportato anche proprio educato, che qualcuno non mi ha telefonato, ma tu guarda il successo, ti sei santificato, no, non mi sono santificato, voglio evitare di fare polemiche in radio. Il mondo è piccolo, quindi prima o poi ci incontriamo a qualche parte, quando ci incontriamo faccia a faccia, allora mi fa capire qual è il problema. Capito? Tutto qua, e quindi per me il discorso è chiuso. Io faccio radio e tutti devono fare radio, con me, come sto facendo io con gli altri. Ci divertiamo, scherziamo, scattiamo. Questo era il canale 10 di due anni fa e questo è il canale 10 di adesso. Cosa ha detto lei, che fa cosa di fare i frati, i bredi, le predicazioni, le prediche. Immagini dei miei guglioni, siamo ai 27, nei 13 anni. Aspetta, come stavo dicendo io, era l'allusione che stamattina ha detto si è incattato perché c'erano le illusioni, se no il biglio attiva il mondo e cosa del genere, ha detto guarda, io ho risposto, detto, sono persone grandi, sono le tue, ha detto se ragionano due, gli ho detto la verità, e quindi se ragionano due, tutto lì. Così io ho detto a Fabrizio stamattina, dice se sono stufo io di fare così, no, sono la 27, se rimane morta, sono rimasti pochi, così ho detto a Fabrizio stamattina, e quindi e tu va, e se ci sono due, ho detto sono cose, ho detto di Fabrizio e di Antonio, anche se la verità non l'ho detto adesso. Perché sono una visione che fanno uno e anche l'altro, siccome tutti e due pigliano, hanno dei problemi, non è che ci devono rimettere gli altri, la verità, in altri canali, sono cose vuote e basta, che poi si possono fare anche, per dire, normalmente, di bellezza e al bar, con te, e vedo qua, birra e si finisce molto così. E come la penso io, così ho detto a Fabrizio stamattina, a baracchino. Poi non so se sono ci riuscite, d'accordo, pazienza, perché io sono più di 20 anni che vado d'accordo con tutti, quindi mai ho avuto problemi, la verità. Nel racconto della sala è stato nome a pezzi per dire, però grazie a Dio sono tranquillo, mai sbagliato, dato non lo so, sembra che sarebbe cosa che possa dire, qualcosa di trattamento, quello che si va bene l'anno, 6 mesi, quello che è, poi è un pisticcio, tac, tutti da fanculo andiamo. Non è così, non è così, bisogna cercare di stare tutti tranquilli. E usare l'apparato solo per rilassarsi, per scherzare, per trovarsi tra amici, farsi una bevuta insieme, mangiarsi una pizza, ecco quello. E come fanno in continente? In continente fanno così, hanno questo modo di fare che è molto affabile, molto amichevole. Cerchiamo di imitarli in certe cose, delle cose belle vogliono imitare. Io sono d'accordo con te, non è di noi due, il problema non è nostro, il problema è degli altri, già. E non lo so cosa è successo tra loro due, la verità, perché uscivano assieme, andavano a cena assieme per dire quello che è, non so cosa è successo, la verità. A volte si dice, a volte si dice che quando una persona se l'ha fatta apposta che ti conosce a baracchino, che ci vai tutti i giorni assieme, cosa c'è? Sembra che ci sia un coso, non di poco per dire, ti bisticci subito. non lo so la verità cosa è successo, perché non lo so, però è così, io non ho mai pensato con nessuno, grazie a Dio, sono state fatte per le cose mie, che lo conosco a te, lo conosco a tutti gli altri cibi, quello che è, perché Dio non è successo niente, anzi, io sono amico di tutti, quello che è, anche tu la stessa cosa, però non lo so, è un periodo strano la verità, è un periodo strano, non lo so. Già detto Gianni, infatti non è successo niente, è successo a livello personale, quindi a radio non c'entra niente, non ci hai sentito bisticciare nel radio, non lo piaciuto, non è successo niente, la luce che poi ha fatto traversare il vaso è quello dell'amplificatore, punto, però io non mi sono permesso di dire niente in radio, ho detto solo quello che pensavo, quando mi sono ascoltato su 10 perché doverosamente ho chiesto anche scusa a Gianni, che Gianni mi ha toccato, sentivo anche io proprio attenuato e poi non ti sentivo più, quindi non mi dava il fastidio, se mi dava il fastidio comunque te lo dicevo, ecco queste sono le parole di Gianni che è qua presente. Qualcuno invece facendo grande, pensando di essere grande, ma grande non è, perché c'è la testa talmente piccola, peggio di un bambino di 5 anni, nonostante si reputi chissà che cosa, ho avuto la buona idea di farmi aprire anche alla 10. Lì, siccome ancora qualche amico ce l'ho, ha preso il telefono e mi ha chiamato mentre io ero sul canale 12 con lui. Mentre ero sul canale 12 parlando con lui, ha preso il telefono e mi ha chiamato. Ma ha detto, vai a 10 che ti stanno facendo aprire. Io sono passato a 10, lui aveva già terminato. Infatti gli ho detto, io non sento nessuno. Allora, siccome lui mi ha ricevuto un'altra telefonata, mi hanno detto chi era, allora hanno detto quello che pensavo, punto, e si è chiuso il discorso. Non è che ci siano molti discorsi da fare, comunque a livello personale, allora non c'entra niente, a livello personale abbiamo chiuso così, in bellezza, ognuno con la sua strada, anche perché non siamo mai stati amici, perciò no, non è che a me mi cambia la vita, per carità di Dio. Non è che a 50 anni posso incriminare il mio passato, grazie a Dio non ho di amici quanti ne voglio e mi cercano più a me che a mia sorella che è donna, capito? Quindi non ci sono problemi. Va bene così, non è successo niente, ancora non ti preoccupare. Continuiamo a parlare e a fare. Però attenzione, molta attenzione, perché io non ci sono in radio la mattina, però c'è qualcuno che vi ascolta sempre, tutte le mattine, non interviene, però vi ascolta. Nel momento in cui, ripeto, ribadisco, lui mi riferisce cose belle, come stamattina, è un dialogo normalissimo, io accetto quello che mi riferisce. Se mi dovesse riferire che fate il mio nome, che mi cercate, e qualcuno, come dice Fabrizio, fare le affermazioni sbagliate, io cambio idea, e quando cambio idea credo spero di averci tengono tutti, quindi attenzione, come lasciatemi tranquillo e sereno, che non me ne fotte nulla di nessuno. Ok, chiuso il discorso, Antonè, non è parlare più, a tutti i di Guglione. Ok, ripeto. Positivo e campanellogero. Io ancora non ci ho capito la sinoma, ma comunque. Ma vabbè, no, stavo pensando a Domenico Targamento, ma Domenico come sai che rientra più tardino. Dove forse ci vedremo domenica. Forse ci vediamo domenica perché deve venire a farmi le foto, devo mettere adesso è tutto a posto, anche l'amplificatore, tutte cose, per farmi la foto grande, unica, perché quella che c'è in tre pezzi, devo metterla su Facebook, a posto di quella che c'è, come è seduto, e niente, e quindi sicuramente ci vorrà andare domenica, ma comunque io lavoro domani mattina, poi domenica sono a riposo, quindi da domenica ci possiamo vedere anche tutti i giorni, non c'è problema. Gianni, ripeti. K. Aspetta, quando arriva il mobile nuovo, ma faccio anche la metà anche su Facebook. E poi infatti troveremo il successo qua. Se viene una trovare male che addosso. L'avevo abbassato io. chiedà. Trappare i pesci secchi. Poi l'ho tolta e ho messo una fotografia. Una mia fotografia che dove era lei, stavo ridendo. Stavo mandando a Firenze e il figlio, quindi più allegro di così. Non già l'ho visto tuo profilo bellino. Aspetta che abbasso sto piatto di lago. Non è una bella fare in piccola, tranne tu che sei simile a 4.30. Non già l'ho vista, sì, già, molto bella, abbastanza ordinata, l'avevo vista un po'. E poi niente, la fai, fai l'ombre. Io adesso quando faccio la foto unica è molto bella, è molto coordinata, i barattini con i barattini, gli ATF, è tutto strumenti con strumenti, è tutto al suo posto, capite? Ok, vediamo un po' se Giuseppe si è benevento la borsa alle balle. Giuseppe. Siamo le operette, la matta con le balle a casa, con questo discorso mi avete rotto le balle. Lasciamo il perdere e facciamo a fare un discorso serio, tanto come Dio comanda, che le chiacchiere voglio fatte e buttate al vento, se mi permettete. Giuseppe, sei proprio come il sindaco, cazzo, ti faccio candidare al comune di Plaga alle prossime elezioni. Domenica ti faccio un discorso no, perché noi ci conosciamo molto prima di tutti. Ti faccio un discorso e tu mi dici dove io ho sbagliato, ok? Tu dici fa, ecco, fermati, hai sbagliato lì, chiedi scusa, perfetto. Se ho sbagliato io, chiedo scusa. Claudio, tu lo sai come la penso io, no? Tu lo sai e mi conosci abbastanza bene. Io a te quando io ti dico una cosa, cazzo non mi dai retta, a me cazzo, a me scusa se te lo dico, però non mi hai mai dato retta. Io a te ti dico che quelle persone non mettono a genio, e vuol dire che c'è un motivo, da come l'ho visto, hai capito? E già tu mi devi capire a me, al volo, no? E già me ne sono reso conto da quando si è comportato con me, hai capito? Quando si è comportato con me e con un'altra persona, hai capito? Che a me mi batte una parola sola, io ci arrivo 5 minuti prima, aspetto 5 minuti prima, giusto per essere puntuale, perché io alla puntualità sono sempre lì, hai capito? Alla puntualità, se a me mi dà un orario, io sono lì, hai capito? Punto e basta, e chiudo il discorso, Il giorno che hai dato l'appuntamento a me, che io ti ho detto mettiti la parrucca, col capo ci sei venuto. Vabbè, quello era perché non mi sono depilato, capito? Giuseppe, un piscio, cazzo, un amico, cazzo, un piscio, sì, vabbè, dai. Domenica mattina ci prendiamo, io ti offro il caffè e Gianni ci prende il cornetto. Bene, va già. Ah, vabbè, prendo il caffè, il cappuccino con la pasta, anch'io. Che bello. Tu, brutto buco, non ci venire perché mi va un tempo la mattina presto. Allora ti faccio fare la plecchio, ti faccio fare dove dico io. Allora, se dai così, te lo sto dicendo io. Vedrai cosa ti capiterà, te lo dico io. Che cosa, Antonio? A me sta dicendo? No, sto dicendo a Claudio. Visto cosa ti ha fatto te finora. Vediamo cosa gli capita a Claudio, te lo dico io. Mamma mia, no, non mi mettere contro Simona, per favore, perché te lo sai. Certo, mi ricordo che le sedi una volta pensavamo naturalmente Antonio la mia ambasciata di quelli sì che erano tempi, non vorrei volare di uscire da lì che cazzo le 4:30 ma volata alle 5 le cambiare il sedi mentre di lui attaccando a rubare a Giuseppe. Mamma mia, cazzo, quanto si beveva allora. E noi che erano Simona, ma è scesa Simona, non mi ricordo Antonio, forse è scesa era con lui. veramente c'è un sacco di cazzate lì qua. Ma quanto conosceva Simona, mi ha detto. Se lo dici, se questo dico una cosa, ma mi ha detto proprio, guarda, ma cosa è la verità? Quella era Giovanna. No, era Simona, il Firimira, era Simona. Era Simona, che se mi conosceva, mi ha conosciuto in via Rezzetta, ma Simona, adesso non si ricorda più se mi vede, a me mi ha conosciuto in via Rezzetta, c'era Gesuino, c'era, come si chiama, Manicomio, c'era me, Giovanni, Cucciolo, c'era Andrea, veniva di dietro lì, quindi prima che uscì secco, ho detto, oh, scusa, ma cosa c'entra? Ah, non mi interessa a me, ma via da Bode, mi ha conosciuto, se lui, lui dice a Simona, mi ha conosciuto via Rezzetta a me. Se mi vede adesso magari non mi riconosce, ma a me mi ha conosciuto via Rezzetta, perché è lì che io l'ho conosciuta, è lì che l'ho vista, la prima volta l'ho vista lì io. Sì, sì, normale, metti si bagna in parecchio, te lo sto dicendo. Giuseppe la conosce, per me quello è un figlio come dici tu. Se tu sei qua, per me che è come avere Scooby in casa, tale uguale. O no, Giuseppe? Sì, sì, mi attore. A parte non la conosce Simona, che vabbè, Simona l'ha conosciuta molto, molto dopo di Gesù Zitto. Quel periodo lì ho finanziato qualcosa io con la figlia di Battistino, con Giaguaro, come unica l'ho fidanzato, quel periodo che lui mi ha conosciuto, gli ho detto. Era bello con gli ufficialisti, era una cosa diversa. Monica, cioè si chiama Monica, siamo la conosciuta da sono 10 anni dopo, figurati, no, adesso 10 anni dopo addirittura. Scusate, posso intervenire? Ehi. Dai, io faccio il QRT che domani si lavora. Buonanotte a tutti, buon 144, l'ho fatto, buon proseguimento e ci riascolta. Ciao Franco, buonanotte, buon lavoro per domani. Com'è la Franca? Ciao Franca, dov'è? Il nostro saluto, Franca, com'era? D'accordo? No, non copiare, d'accordo? Ok. Oh, il mio saluto è diverso, ciao, perché tieni duro per entrare in culo. Pure, grazie, andiamo meglio. Ciao, tutto gonfio. Mi sono promenato la signora Vanna Marchi. Tanto domani mattina, no, perché stiamo parlando con domenica, già ci vediamo. Un po' più gittoso, non so, non devi andare a... in campagna al tuo compare e ci vediamo. Antonelli, stai sbagliando perché seduta vicino a Simona, il bar era vecchio, se ti ricordi, c'era lui praticamente stava parlando con Pier Andrea, e lo ricordo come se fosse lui, che cazzo Antonelli, ma buffone di lì, ma c'è una memoria di ferro, noi stavamo bevendo birra anche lì. E lì è entrato Gesuino ed è arrivato anche Manicomio, che aveva appena smontato, perché ha detto una sera, infatti è arrivato per parlare sì, sì è qualcosa, sì è mezzo. E lì, vabbè, e lì io sono esordito, ma l'avevo vista una volta solo, una volta, capito? L'avevo vista una volta. Perché tu c'è una memoria corta, però io a Simona l'ho conosciuta, vista per la prima volta, una o due volte, via Rezzetta. E boh, poi tu giri con Monica, giri con Valermosa, io non lo so, io lì il giorno c'era Simona, e se tu chiedi a Manicomio, se lo dovessi vedere, lo dici questa testa di parole che ti ho detto io, lui vedrà che si ricorda, vedrà che si ricorda, perché eravamo tutti lì, capito? Eravamo tutti lì, era l'ultimo periodo, mi pare, che io vabbè, ero già Carmonati, vabbè, io sono arrivato a Carmonati, e Carmonati sono sempre rimasto, erano quei 2 anni che mi sono spostato lì a Pascoli. Però sto dicendo, io mi ricordo così, poi dal giorno, da quando tutti si è traroccato praticamente da Rezzetta, sbagliato parecchio, ma di un bel pure me. È meglio che vieni qua la vedi, che mi ci c'ho ragione io. Non ti voglio dire niente, la verità. Quel periodo che tu mi hai visto a me, ero fidanzato con la figlia di Giaguaro, comunica, la bionda con gli ufficialisti, e poi c'era la madre di... c'era la moglie pratica di Giaguaro, che era qualche anno più grande di la figlia, la verità. Mi sembra che sono 5-6 anni addirittura, quindi... Ma che la conoscevo molto, capito? Manco ci stavo pensando. Monica, cioè in pratica si vuole conosciuta, ma dopo tanti anni. Quindi, quando va bene Simona, perché mi dici, anche lei aveva ragione. Non la conosco Simona, perché non la conosco. Perché la faccio vedere, Claudio, che dice, la faccio vedere, perché mi dà ragione. Antonio l'ha conosciuta, Antonio Falchetto, anche Grobbe. Tu no, la verità perché non l'hai conosciuta. Se la conosci ti fa schiattare, lo dico io. Quindi, a poter dirmi, dammi le tre cose che siedo io, ok? Secondo me sei grandissimo rincoglionito, guarda. Cazzo, vabbè, hai ragione tu, Antonio, vabbè, è così. Io non conosco Simona. Vai, Rucati, vai, se non vedi mille, vai, insomma, non conosco Simona io. Sopra che lavorava, cosa faceva, quando tu eri in via Rezzetto, cosa dimmi lo tu. Sì, io come devo dire, io lasciamo perdere questo discorso di Simona. Oh Claudio, ma si trova ancora Pier Andrea? Sì, che si trova, non si trova. Non c'ho il numero io di Pier Andrea, perché me ne è malato uno tempo fa, che l'avevo visto qua al Conti, volevo fare una visita, non so manco dove l'ho messo sinceramente, se no avrei fatto chiamare a Pier Andrea, avessi conosciuto noi, vai che ho capito, vai che si fa il giorno, vai. Io, magari se lei vede a me non si ricorda, ma io non è che abbia cambiato molto, ho dimagrito molto da quel periodo, già usare pesavo 90 kg, però come viso sono sempre uguale, ma io stai tranquillo che lei non mi dimentico, perché la conosco bene, so chi è e tutto, quindi no, lasciamo perdere, vabbè, a tutti bene, che la conosco, comunque so chi è, va bene così. Quando la vedo di strada la fermo, ok, a vedere se la conosco. Senza che lei mi conosca, la fermo io, glielo dico io a chi sono. E così fai figura del cazzo tu. Va bene, già mi lo più lungo e prendi, se no ti addormenti. Facciamo la scommessa anche. Vai, ancora che la bella scommessa, tu falla scendere, la fai fermare dove cazzo vuoi, ok, e ci vado io da lì, e dico tu sei Simona, così è, ecco, facciamo così, è perdi, è. Mi ha portato proprio la cerenza, la verità, mi scappa la resa, Giuseppe la conosce parecchio, sto dicendo, mica si prende parecchio micro, la figura che ci ha fatto Antonio, quando è venuto a casa mia, il giorno che ha fatto che ha voluto fare il pranzo, lo fai anche tu, te lo sto dicendo. Non è che ti tappi sotto, te lo sto dicendo io mi. Giuseppe, mi sbaglio o non mi sbaglio? Non sbagli, Antonio, non sbagli. Vabbè dai, signori, io vi auguro una buonanotte, un bacio da 44 e ci aggiorniamo tutti quanti alle prossime volte, dai. Ok, dai, quelli per me, dai, ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao, alle prossime. Vabbè Antonio, tu pensa la colimo, io comunque la conosco. So chi è, lui, se tu dici che non è così, io ti dico che come dico io. Vabbè. Sai che sono i cambiati, io la conosco, lui, e l'ho conosciuto da anni fa, da quando ti sei messo, quindi, allora bravo, e poi siamo un discorso, poi tu la vuoi dire come ti gatta, debbiate, va bene, non te la descrivo qua perché non mi interessa fare la descrizione, ma tu falla scendere, tranquillo e sereno, senza dirmi niente a me, e io ti dico, mi sui penso, domani tu falla scendere, io ti chiamo, va bene, scende tutti e due assieme, tu avanti e lei esce un po' dal cancelletto e poi ti dico a vedere se lei così, cioè io la conosco, se quelli a me non mi conosce vuol dire che non si ricorda di me, ma io la conosco, tutto qua. E poi non sai cosa faccio, scendo con lui e due ragazze brasiliane, vediamo chi è quella che conosci tu, ma non ci sono problemi. Niente da scegliere, non ci sono problemi per quello. Se sbagli, paghi la cena. Ma non quando, a casa tua, con loro, davanti a tua moglie, ci stai. Con i brasiliani? Ma vabbè, facciamo un incuro mai, ma con me. Perché se almeno che me fai ragazzi. No, non rischi caro mio, ti non rischi la rosetta, e allora te lo sto dicendo, se vedo che la conosci tu, te lo sto dicendo, sento come io rischio, te lo sto dicendo, vedi tu, per me, tipo per questa zona, e gli altri due, voi dovete essere vecchi, uno o l'altro, no? Non so barate, l'avete preso, non so barate, tu sono le tue amiche che conosco io. Non c'è niente quello, la verità. Ma se c'era tua sorella, cazzo, ti facevo fare una figura di merda stasera che tu manco te l'hai accusato. Se c'era tua sorella, ti facevo fare una figura di merda stasera, adesso me. Mi ricordo benissimo, ti ho detto, come se fosse oggi, c'era anche Coca-Cola, era piccola, però c'era, diciamo, e poi lo sa che io l'ho conosciuta a Simona, quindi tu fai come ti piace voi, scendi con lei, con tua madre, scendi con chi vuoi, scendete in 10, tutti e 10 uno in fila all'altro, e io ti dico, quella è Simona, punto, poi, se sbaglio, allora pago la cena, il ristorante però, non a casa di nessuno, ma pago il ristorante, ok? Andiamo, ristorante pago io, va bene, ci stai? Se però perdi, che io conosco Simona, e tu magari dici che non è vero, allora paghi tu. No, proprio non capito, non pago io a casa tua, ma il coso è diverso. Anzi, se sbaglio, non pago in casa tua, me ci fai perché ti vuoi tu, non io. Il coso è quello. Anche perché tu ti ricordi tanti anni fa. Io Simona la conosco da sé quando? Nel 2000, figurati tu, nel 2000 ho conosciuto la cifra di Simona, non prima, nel 2000 ho conosciuto. Ma quel che ti ha detto tanti anni fa, siamo nel 2012, canto me, sono 12 anni. Tu secondo me oggi prendi il fiasco per il treno. 12 anni fa sono, beh, allora, tu immaginate che io sono 5 anni che non vado da, non neanche 3 anni che non vado da Gesuino, capito? Perché chi per problemi di caccia, di balle, di bomba, già farà dei butti, poi sai, io condiviso la separazione tra i due fratelli, Luigi e Iaio, quindi mi sono rotto le palle, li votando a volita, ma sempre difficile facendo. Io e Tano, quindi non facevamo altro che separarli, prendere cucchi, a destra, a sinistra, mi sono rotto i coglioni, sono cambiato. E saranno 3 anni fa, 4 anni fa. Quindi non è che io da quella zona manco la moto, perciò chi ti sta dicendo 20 anni fa o 10 anni fa? Hai detto nel 2000, perfetto, siamo nel 2012, quindi sono 12 anni fa. Pertanto non è che siamo così lontani dalla realtà, e comunque tu fai quello che vuoi. Io penso che la conosco, lui, a meno che non si abbia fatto la plastica al viso, capito? E abbia cambiato totalmente fisionomia, ma siccome l'ho vista da poco affacciata, ti ho detto che ero Andrea, e quindi mi pare che Pucchiero, non mi ricordo Pucchiero, è lì tu Burumira, la vicina di Antonello, affacciata. E basta, ma si è finita lì, però tu dici così, vabbè, io dico qua, vabbè, tu domani prova a fare quello che sto facendo io, e poi mi dirai che avevi ragione, e lo dico anche dove l'ho conosciuta, ed era un tingo, quindi sei duro rincoglionito, ma io, dopo c'è stato un break, avanti break. Sandri, buonasera, ben ascoltato. Stasera c'è un po' segnale, è ottimo, è 9, abbondante, ma la radio è molto bassa, non so se ti ascolta Gianni, vediamo un po' Gianni è caduto, mi si è caramaiato, vabbè, lo sappiamo che lui ha questo problema e quindi condividiamo con lui la scelta. Antonello. Dimmi Sandro, avanti. Ti sento ben male, ma un bel me però, stasera, non che ancora dai me la verità. Vero? È molto basso, noi siamo vicini con Antonello, se ti ascolto male io, ti ascolta male anche lui, il segnale c'è, però la verità è molto bassa. Va bene, e quindi cambiamo discorso Antonello. Questo del baracchino, come ha detto Giuseppe, si è fatto sentire allora. Si è fatto sentire, grazie a Dio, meno male. Altro se il caso non mi tira, se è vero, io se non sono mi tira, entro domani sera, l'apparecchio è già venduto, io ho detto, basta. No, come ha detto Gianni Giuseppe, occhio, perché per le vendite così, come si dice, c'è un nome che adesso non mi ricordo, deve passare un periodo. Nel momento in cui passa quel periodo, allora puoi fare quello che vuoi, Antonio. Quindi se non è passato quel periodo, lui magari ha avuto problemi, eccetera, e te lo cerca e non lo puoi vendere. Lo vuoi ritenere, usarlo, eccetera, ma non lo puoi vendere, capito? Quindi se lui ti ha detto che viene a prenderselo, glielo dai e basta, ti pagare di là, se mi dai più. Che un anno è passato, dietro giusto la verità, un anno. Credo, guarda, ma non passare 50 mesi. La legge, grazie. Anche mia moglie sta ricordando, perché quando è arrivata mia figlia alle 10:30, io ho fatto un attimo di bianco, sono andato a salutarla, ci ho parlato, adesso mi sta dicendo, si è arrivata l'aria e tu manco esci dalla stanza per venire a salutarla, vedi che ogni tanto si perde l'orientamento. E quello sono i 50 anni che fanno così. C'ha ragione io. Tutti così. Già passato l'anno. Io ho telefonato per correttezza, ha detto che se lo ritira, così ha detto lui, e quindi se adesso lo ritira, se ne sono cazzi suoi, gli ho detto, perché ci ha venduto il letto, 100 euro l'apparecchio, 2050 euro di euro, e non gli siamo a posto di letto. Ha detto già se lo ritira, e tu mi sentito vai, noi, davvero, a barchino gli ho detto, c'è la barchina, a telefono gli ho detto. Come stanno le cose, poi vabbè, tu adesso vediamo. Vai Sandro. Sì, per me sì, per Antonello, insomma, siamo amici, se ti ascolto bene io, ti ascolta bene anche lui. Comunque ancora credo che debbano passare 5 anni, adesso mi ricordo. L'ha detto anche Gianni, c'è una legge che appunto dice così. Non mi ricordo, non so se per la radio è la stessa cosa, ma per le macchine ad esempio è così, se tu non la ritiri entro 5 anni io la posso vendere, credo che sia così, le prendi per Sandro che va bene. Avanti Sandro. Allora, macchina è un anno e 2 mesi la verità. Ho imparato il tutto, prima mi ha detto che avevo avuto un incidente, per cosa che non poteva fare niente, eccetera, eccetera, poi dopo che diceva ci vediamo, ci chiamano tra 2 mesi, l'ho chiamato e mi ha detto che non ci aveva soldi e niente, quindi a me le balle non mi piace la verità, se io ho un problema, che io spendo soldi per lui perché c'è la fretta e poi non si fa vivo, dopo un anno la verità, se permette che non venga, no, o mi sbaglio. Stasera. Io ho detto se non è per baracchino non conto, se no era già pronto in vendita, gli ho detto, 100 euro. Mi ha detto, no, me lo tiro, me lo tiro, gli ho detto, stasera. E quindi a un certo punto, se io si fa bene, se non ti fa bene, ma entro la settimana, tu gli ho detto, il baracchino, ho detto, me lo vendo, se è tanto piccolo, tu quanto sei, gli ho detto. A un certo punto ho detto, cosa hai detto? Che io ho detto, in vendita. Io ho i soldi li messi per te, per mettere i pezzi. E quindi a un certo punto, dopo l'anno, scusa, se ci metto 50 di pezzi, a un certo punto cosa non ricavo? Non ricavo proprio niente. No, sei andato in perdita perché il tempo che hai usato per fare, oltre ad aver anticipato i pezzi, hai usato del tempo che non è stato retribuito in quel momento, che voleva molto di più del resto. Tutto per quello, quindi. Secondo me che lo ritira. No, per cui io me lo prendo, 50 euro, me lo batto proprio lì, la verità, ti giuro, guarda, lo odio quel baracchino, perché lo odio. E il macchino cresce veramente bene, la verità, perché è trattato in macchina di Giuseppe, e cresce veramente bene. Però lo odio, cioè io odio le persone che ti pretendono di fare una riparazione e poi si presentano dopo 8-9 mesi per che cosa? Per il gatto e il baracchino, dopo che c'è impiegato per dire 4 ore a sistemarlo e in più cambiare il pezzo che costa 25 euro lo smitter e lo trovi, devi ordinarlo, a me mi si dà veramente le balle. E quindi a un certo punto, guarda, c'è da prendere e puntigliare, perché non è così, è proprio da puntigliare. Quindi ci rimetto io più che altro, soltanto a me una ditta, la cosa si è cambiata, te lo dico io, perché mi avrei fatto pagare non solo la riparazione, ma anche il resto, per dire, purtroppo non posso farlo perché sono una ditta io. No, a me me l'ha portato, la verità me l'ha, la parecchia me l'ha dato la GBC. Chi c'è di fare questa panica qui perché aveva che fare per dollaro. Cosa c'ha? Cosa c'ha nell'elettro? C'è tutto smontato. Non c'era né smite, né nulla, né malapo, niente, non c'era niente. Questo voto di pazzare io. Pezzo a pezzo. Dopodiché, una volta che l'ho ripensato, come vedete, l'ho telefonato, prima ha avuto un incidente, ha detto, lui, che sono palle quelle, ha avuto un incidente, non so che cosa, dopo l'incidente, dopo lo vengo dicendo, ha ritirato per una settimana, io ho telefonato, e la volta ha detto, ma scusa, adesso dice un suo tempo, dice cos'è il genere, ci vediamo fra un mese, e sono passati un anno, è passato, capito, quindi con la parecchia, non è forte, è proprio un capo, il discorso è quello, è gente, che quando vuole le cose sono gratis e meglio, il discorso è quello. A me, gente così, ma non conosce la verità. La prossima volta che mi capita una cosa del genere, io mi porto un apparecchio gratis, a farlo gratis. Io ci ho avuto la moto se si abbia in culo. Dico, guarda, fa la cosa, la fai che non è cassoletto, ma te lo ritiri. Posso? E su quello non ci credo perché la gente vuole cose gratis. Va bene, ma sempre lo vuole gratis, nonostante qualcuno dia, dall'altra parte non le fa niente. Vabbè, dai, buon proseguo a tutte e due, io vi lascio che è già mezzanotte, se no domani faccio fatica ad alzarmi, ma devo trattenermi un'altra mezz'oretta a farmi due chiacchiere con mia figlia. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene, buonanotte a tutti, rimango in ascolto ma non intervengo perché passo dall'altra parte. Ciao Sandro, ciao Antonello, eventuali essere doppio dell'ascolto. A domani signori, Antonello, occhio alla penna sempre. Ok Sandro, a te il microfono, per me QRT, buonanotte. Ciao, qua ci sentiamo le prossime. Poi come avere quella penna c'è, purtroppo. Se tu fai lavoro, che è una persona si fa pure, avevo dopo 3 anni, a un certo punto vanno a fare il culo perché non è possibile. Il telefono non risponde. Prima è malato. Poi c'è un incidente con camion che lui è morto più vivo. quindi a un certo punto ti fa capire non c'ha soldi, a un certo punto lo chiama stasera e adesso si fa vivo, ti cerca dopo di nuovo, e no, mi dispiace, ma non mi fa più bene le cose. Adesso si prende quello che si prende, ma le sbatte proprio non presta a me. Appena più di cui ci si pretende. Dopo 5 anni ti fai vivo e vola parecchio. Non ti ha sofferto di prima? No, no, assolutamente no. Io la penso così. Se vola parecchio, lo paga, e se la tocca il culo, lui è con te. E non, ma non vedo neanche più per lei addirittura, non so, ma neanche la CB, non sono un amico, ma manco la CB, perché non è possibile avere CB così. Ma neanche come amico, se in questo non ha passato il culo. Ma poi uno faccia fare dopo 6-7 anni, per esempio, in quello il Covid 4005, perché magari lo sente da altre persone che sta facendo bene. Hai capito? Magari è furato il suo baracchino, io cosa ne so, magari questa pare che è rubato e lui se lo vuole ritirare. Il rischio è mio, non il suo, il rischio è mio. Io cosa adesso mi ha pigliato questa pare che ho qua. Se me l'ha tolto, smontato, non si capiva la fanculo dove c'era lo smite, dove c'era le manopere, dove c'era tutto, la mascherina. È a rischio, è veramente a rischio, e non ne faccio più quel barattino del genere, non me ne porto più nulla, ma manco se sto volendo di fare, non riparo per niente a nessuno, e adesso basta, con i barattini così, basta, se non c'è un barattino di parare, lo porta, da un centro assistenza, e se lo fa sistemare, paga e fa quello che deve fare, perché io non ci posso passare più. Non devo partecipare niente, i soldi a nessuno, per lo smitter e anche per il resto, perché c'ho ragione, c'ho ragione purtroppo, è così, adesso basta, la gente è abituata a fare male, a baracchino, a fare le riparazioni gratis e a fare le riparazioni quando vogliono loro. Va bene che questo lavoro qui mi ha passato a mettere uno al GBC, che sta cercando uno, dice, al sistema di apparecchio, me l'ha portato a casa, era tutto smontato, non c'era le smite, le manopole, niente, tutto smontato, io l'ho tutto smontato. Aspetta, di uno stato, cosa del genere. Dopo si tira il telefono, guarda che la parecchia a posto, non c'ho soldi, certo non c'ho soldi, ma se mi chiami, non sta metà posto, non c'ho soldi. E non esiste lì, dai mi sono incazzato. Si potete dirmi adesso me lo ritiro, per dire, capito, me lo ritiro adesso, dopo un anno e mezzo, e questo sotto io quello che l'ho conservato, questo fatto appena me l'avevi venduto, perché di Roma è così, dopo un anno e mezzo, ma c'è, prima non mi cerchi, ti chiamo, non mi rispondi al telefono, hai capito, non ho risposto mai al telefono, lo chiamavo, non rispondevo al telefono. Mi metto qui, c'era un incidente, non so che cosa, ma lui che cosa ha avuto in camion, che balle, solamente balle, non ho visto altro. E poi a un certo punto, stasera, dice sì, adesso mi piglio l'apparecchio. Tanto, ma ti piglio l'apparecchio che cosa? Dopo un anno e mezzo, ma per scherzato. La gente mi sembra che sia diventata scema, la verità va bene diventare scema la gente, non è possibile. Che tu pigli l'apparecchio, lo ripari e poi dopo 2 anni, 4 anni deve essere ritira quando vuole lui. Magari fa 50 euro perché ha, per dire, ci ha preso una prostituta, gli ha fatto 200 euro e si ritira la parica. Ma sei cazzato, cioè, se tu prendi la parica a riparare in un negozio, me lo dai e te lo riparo subito, perché lo vuoi, perché ti serve, non è che te lo chiedo dopo 3 anni, cioè, perché la parica, questo va per la per il culo, secondo me, per come la penso io, la verità, eh. A parte ci ho preso soldi io, lo smette a me, non me lo regalo a nessuno. E costa 25 euro lo smettermi, lo smettermi di macchina costa 25 euro e ce l'ho messo io, non ce l'ha messo lui. Tutto per quello, se dai i soldi, mi devo lasciare per ritirare, se non sappia il culo, barattino, poi lo faccio a pezzi. Poi la volta lo faccio a pezzi, così, davanti a lui lo faccio a pezzi, non ti fa niente, perché non è possibile. La verità no, non mi vende niente. No, per me, a Giuseppe Rosarno esce bene, solamente adesso si fa vivo di padrone, capito? Ecco, perché evidentemente gli hanno detto, comunque la panicoltura fa Rosarno a Sassari, la conosce bene, veramente bene, qua e là. Si è fatto vivo dopo un anno e mezzo. Prima non ne fregava nulla, hai capito? A chi ne frega? Comunque sia, se lui ha soldi, se non sa di alcuni, tanto la penso io, la verità. Perché sono basta essere passato per imbecille? È perfetto. Le passioni io, le pago, lo stagno, tanto la luce, quello che io la pago, poi lo pago un cazzo, la verità. No, io non la pago. E quindi se vuole banchino, mi prendo i tre soldi, e l'apparecchio, non interessa proprio niente a me. Allora faccio quello che vuole. Senza niente, un talino non ce n'era, smontato, senza fili, tutto smontato, tutto via via, l'apparecchio smontato, senza colonnina, senza niente, sapete, la colonnina, lo smite gli ho cambiato, tutto gli ho cambiato, l'ho fatto, l'apparecchio come si deve, cioè come si deve, che esce veramente bene. Mi dà fastidio che uno venga così e mi dico che è male, a un certo punto dopo 2 anni si fa vedere, hai capito? Poi mi dà fastidio, come dire, va, a dov'è? Guarda che la parete non me l'ho fatto per niente a dire, vendilo e quanto vale la parete? 200 euro, 100 euro, quello che so, 50 te lo levo, 50 lo vendi. Avrei fatto, vabbè, non ci sono problemi, però che tu che uno mi venga a rompere le balle. Io il telefono dice, ah dov'è? Vengo, mi trovo un apparecchio, ti do 50 euro per te dopo un anno. A me mi signore, veramente le balle, la verità, mi signore, veramente le balle. Bellissimo, mi piace molto i picchi positivi che mi sta dando. non c'è problema.